Grazie alla signora Felis e Paola per la presentazione. Buonasera a tutti voi, grazie per la vostra presenza. Sono tutti molti amici, tranne qualcuno che non conosco, ma mi fa piacere che sia ogni tanto qualcuno di sconosciuto. Anche perché le Mille e una Notte sono spesso la pagina di Mille e una Notte piena di sorprese. La cosa magari si ripetono, ma con degli ornamenti nuovi. Dunque, La Mille e una Notte è un libro, se uno così mi chiede che definizione dare a questo testo, allora è un testo labirintico, polifonico, che non ama le frontiere, perché un libro ha saputo viaggiare e far viaggiare l'immaginazione attraversando contesti, territori, ha messo insieme popoli, religioni, fedi, ha messo insieme ricchi, poveri, potenti, meno potenti, astuti per sopravvivere, furbastri che cercano di cogliere le occasioni per a spese degli altri, piene di fanciulle bellissime, naturalmente, di schiavi e di varie umanità. Questo libro, quindi, un libro, a mio parere, rimane attuale anche per il fatto che continua a essere pubblicato questo libro qui, cioè continua a essere analizzato. Una delle ultime pubblicazioni, questa qua, che è uscita poco tempo fa, Paradossi delle notti, leggendo alcuni capitoli di analisi delle varie sfumature della Mille e una Notte, io sono ho scoperto altre cose sulle Mille e una Notti. Soprattutto ho scoperto che un certo scrittore italiano poco conosciuto, io conosco tutti quelli che sono poco conosciuti, naturalmente, questa è la mia caratteristica, come dice uno degli scrittori italiani per l'adolescenza e l'infanzia, Rodari, i tesori si trovano su strade non battute. No? Io quindi cerco di mettermi su strade non battute, prendendo anche naturalmente delle deviazioni, e si perda uno magari ogni tanto, però comunque trova delle cose interessanti. E quindi dicevo, in questo libro qua ho trovato un riferimento ad un scrittore, anzi, io dico, è un libro labirintico perché cerco di viaggiare nel labirinto, cercando di guidarvi dentro questo labirinto qua. Farò magari un po' di fatica, però chiederei un po' di pazienza vostra. E quindi ho scoperto questa figura qua di Alessandro Spina, un scrittore italiano con una storia però particolare. Un scrittore italiano, un po' di tempo prima io sono stato anche nella città di Bologna. Nella città di Bologna, in una libreria che vendeva anche libri usati, ho trovato un libro, Le notte del Cairo. Allora mi sono comprato il libro. Era scritto da questo Alessandro Spina. E una seconda volta, questo a proposito che Le Mille e una Notte è un libro che continua a essere aperto, aggiornato, si aggiorna, si modifica e viene letto, riletto, riutilizzato, su cui ha scritto Burgess, ha scritto, insomma, un libro che viene ripreso continuamente. Questo Alessandro Spina, mi trovo con lui una seconda volta. E nella città di Modena ho avuto un impegno, una conferenza. Finita la mia conferenza, in uno spazio accanto, e in una sala accanto dove io tenevo la conferenza ho visto una locandina dove c'era scritto in memoria di Alessandro Spina, il secondo incontro con Alessandro Spina. E il terzo incontro con Alessandro Spina è stato questo libro qua, che mi ha spiegato meglio chi è questo Alessandro Spina. Alessandro Spina è un scrittore italiano di origine libanese, nato in Libia nel secolo scorso, durante la presenza italiana, di una famiglia benestante di imprenditori. Studia nelle scuole italiane in Libia, quindi acquisisce una lingua, insomma, di livello alto, si innamora della letteratura italiana e viene a Milano a studiare letteratura italiana. E poi in quegli anni lì, siamo negli anni 40, la seconda guerra, quindi frequenta l'ambiente di letterati, poi ha dovuto rientrare nel paese, in Libia, perché la famiglia voleva che tornasse per occuparsi delle aziende dei genitori a suo malgrado. Però Alessandro Spina ha mantenuto i rapporti con una scrittrice importante, anche lei, molti libri suoi di questa scrittrice, che il suo nome è Cristina Campo, che il suo nome vero è però Virginia Guarini, e trattiene questo rapporto perché lei scopre questo scrittore casualmente e poi mantengono una corrispondenza che è pubblicata da un marciliano tempo fa, il Carteggio, tra lei e lui, e che poi negli anni 60 lei traduce insieme a lui una dei racconti importanti, a mio parere, ma non solo, delle Mille e una Notte, La città di rame. È una storia, perché le Mille e una Notte non solo fantasia infantili, anche ha una dimensione reale, ci sono dei personaggi reali, personaggi, protagonisti reali delle Mille e una Notte che sono presenti nel racconto. E la bravura di Shahrazad ha riuscito a connettere la sua immaginazione infantile, tra virgolette, per leggere la realtà, per fare presente e dimostrare la complessità della realtà al re Shahrazad, deluso della sua storia matrimoniale. E per cui il libro di Mille e una Notte, che ha questo titolo Mille e una Notte, è un modo di dire Mille e una Notte, perché il volume, il testo, diciamo, autentico, tra virgolette, sono 40 racconti e 280 notti. Questo è il testo, diciamo, su cui ha lavorato Antoine Galland, che ha tradotto questa opera per la prima volta in francese. Quindi il libro di Mille e una Notte è, come dicevo, un viaggio di ricerca costante, un'esplorazione permanente. E dico questo perché tutti abbiamo visto qualche film su Sindbad il marinaio, abbiamo letto la favola di Sindbad il marinaio. È il simbolo per eccellenza della curiosità, dell'andare al di là, oltre, per acquisire conoscenze e apprendere nuovi saperi. E quindi il viaggio del libro e i viaggi all'interno del libro sono capaci a parlare diverse lingue e abitare tantissimi territori. Quindi il teatro delle Mille e una Notte si svolge in un scenario enorme, il scenario di quel mondo che allora, uso sempre le virgolette, civilizzato, la grande civiltà dell'India, della Persia, del mondo arabo, della Cina. Quindi erano mondi conosciuti dove il Sinbad, ma molti altri personaggi cercavano di arrivarci o immaginare cose potessero essere lì. E quindi lo scenario del libro è un mondo vasto, come dicevo prima, polifonico, voci, no? E la polifonia è delle voci che costellano la narrazione di Shahrazad. E mi seguite? Sì, certo. Fino adesso sì. Allora, chi è Shahrazad? Shahrazad in persiano, in parte in arabo, vuol dire nata in città. Shahrazad è la voce narrante di tantissime storie. Shahrazad è una donna che ha voluto avventurarsi dentro il mondo del potere, sfidando naturalmente due autorità: l'autorità paterna, che non ha voluto che lei andasse dal re Shahriar, il re Shahriar, quello che ha giurato dopo il tradimento della moglie, ha giurato di accoppiarsi ogni notte con una donna, e il mattino si liberava ammazzandola, che poi il fratello Shah Zaman del re, anche lui ha avuto le stesse storie di tradimento, quindi due fratelli che subiscono la stessa sorte nonostante il loro potere, nonostante la loro ricchezza, e poi sono stati non solo traditi con altri potenti, sono stati traditi con delle persone umili, con il cuoco del palazzo, con un schiavo. Quindi la sfida è doppia, e lei ha voluto sfidare doppiamente l'autorità del padre nell'accettare di andare a sfidare il re Shahriar, e dall'altra parte sfidare il re stesso, però forte della sua grande preparazione culturale, la grande conoscenza di storia, di letteratura, di filosofie, di religioni, di sapienza spirituale. Quindi forte di questo ha saputo volare. Ci sono di belli racconti poi magari cito qualche racconto di queste le donne, che una bellissima donna che era forma di un bellissimo volatile, un uccello, che atterra sulla spiaggia di un mare e si toglie queste ali gigantesche, e poi magari vi leggo alcune cose, perché poi una delle caratteristiche delle mie notte, questa descrizione, come dire, anche dal punto di vista, diciamo così, morale, non c'erano reteni, no? Se le cose si dicevano, si raccontavano nei mercati, pensate. Queste parti delle mie notte, immaginate che nell'Ottocento sono stati censurati in Inghilterra, mentre nel mondo arabo si raccontavano per strada certe cose, che vi leggerò poi, vi spaventerete anche voi qua, che dell'audacia con cui si descrive un corpo, soprattutto un corpo femminile. Bene, e quindi Shahrazad poi è una figura vera, una figura reale, quindi noi del Mille e una Notte sappiamo che è un libro che ha potuto viaggiare. I primi racconti, per esempio quello del Sindibad del marinaio, sono d'origine indiana, altri racconti sono persiani, altri racconti sono arabi, i luoghi dove si sono svolti questi racconti e sono tantissimi. Chi è l'autore effettivamente, chi è, quando, la data, no? Qui non sono, naturalmente non ci sono dati precisi su questo fatto qua, ma si sa che il libro è stato trascritto durante il periodo del grande sultano, grande califo dell'impero abbaside di Baghdad, siamo intorno all'800 d.C., il periodo insomma di massimo splendore, in un califo, e poi se vi capiterà a leggere, c'è un capitolo molto bello sulla figura del califo di Harun al-Rashid, di questa sociologa, scrittrice marocchina che è morto un po' di tempo fa, Fatima Mernissi, Harim e l'Occidente. C'è un capitolo sulla figura di Harun al-Rashid e lei difende molto questa figura, perché è stato, come dire, in parte criticato per le sue passionalità, per il suo modo di approcciarsi al tema dell'amore, e mentre lei qua le rivaluta molto, era vero, in questo ambito qua era eccellente nell'amare le donne, nel dirla pubblicamente, e oltre ad essere un grande condottiero, un grande statista, un grande amante del sapere, Harun al-Rashid. Quindi lei elenca tutta una serie di cose, descrizioni di queste figure. Quindi il periodo è Baghdad, è il periodo di massimo splendore di uno degli imperi musulmani molto importanti, che aveva la capitale a Baghdad. Baghdad è stata capitale, non dico del mondo musulmano, del mondo, dal 750 fino al 1258, in cui si sono trovati letterati, filosofi, sapienti, religiosi di varie tradizioni a confrontarsi nei circoli degli intellettuali di allora. E quindi questo libro qua trova in Baghdad lo scenario principale, e molte storie raccontano di Baghdad, raccontano di palazzi di Baghdad, raccontano della vita nella città di Baghdad. Il libro però poi va avanti e si trasferisce anche in Siria, poi l'ultima tappa importante, dove vengono aggiunti diversi racconti come Aladino, in Egitto. Allora il libro viene scoperto da questo ecclesiasta orientalista Antoine Galland, quando era ad Istanbul, incontrando un prete libanese cattolico, Hanna Diab, credo di nome, che le racconta alcune cose su oralmente, e Galland trascriveva la narrazione di questo sacerdote libanese, e poi rintraccia questi tre volumi e arriva a Parigi, quindi stiamo parlando dell'inizio del 1700, e questo libro qua traduce per la prima volta i racconti di Sinbad il marinaio, e diventa un libro, a differenza che del contesto arabo, dove i racconti erano parlati, no, del popolo, no, nei mercati, invece diventano racconti per la corte francese. Quindi il trattenimento dell'aristocrazia che trova in questo oriente immaginato un spazio, tempo di divertimento e di trattenimento, di fantasticherie, soprattutto dal punto di vista anche erotico, perché i racconti, molti di questi racconti hanno un erotismo spinto, quindi anche stuzzicava l'immaginario degli uomini dell'aristocrazia francese. E quindi mentre nel mondo arabo è stato, ha avuto poco, per la verità, La Mille e una Notte non è considerato un libro di importanza letteraria. Anzi, per alcuni versi, dal punto di vista religioso, viene considerato un libro profano, anche se poi raccontato così, però non è stato istituzionalizzato, tranne i racconti fiabeschi di avventura. E invece in Europa acquisisce un'importanza formidabile e Galante è diventato un uomo ricchissimo. In un decennio, non so quante edizioni ha fatto di questo libro qua, anche qualcuno dice anche un po' modificando, aggiungendo, falsificando, quindi per cui dicevo che è un libro aperto, un libro che si lascia ad essere aggiornato facilmente, perché è pieno di meraviglie, di fiabe, di fantasie, di favole, quindi anche Antonio Galanda ha messo del suo, adattandolo naturalmente al gusto francese, soprattutto delle aristocrazie francese. Quindi siamo nel 1700, si produce questo libro, si introduce in Europa in modo, diciamo, così completo, uso questa parola, quindi mi viene questo intanto, però qualcuno è andato a indagare, ma è vero che Antoine Galland l'ha introdotto in Europa o c'erano degli altri nessi? Allora qualcuno è arrivato ad un libro di un gentiluomo bizantino, Andreopoulos, che siamo alla fine del XI secolo, dove scrive un libro, Sintipas, il titolo di questo libro, Sintipas, che è una raccolta di tradizioni di saggezza orientali. La narrazione, diciamo, la cornice narrativa è la storia dell'educazione del figlio dell'imperatore Ciro, Ciro il Grande, che per educare sua figlia ha chiamato questa signora Sintipas, che poi somiglia al nome di Sindibad, no? Di Sintipas, che quindi racconta le vicende di questo, di questa storia. Anche lì troviamo questa contrapposizione tra la matrigna, che insomma non vedeva con un occhio, non vedeva bene questo figlio di Ciro, e dall'altra parte i saggi, quindi il conflitto sempre tra donne e maschi è molto presente anche nelle Mille e una notte. E poi si va altri, a proposito di intrecci di un libro senza frontiere, prima del 700 questo libro, quindi del 1100, già entrato in un certo spazio, diciamo, narrativo europeo, ma ci sono, qui forse voi sapete molto meglio di me, alcuni racconti di un libro, il Novelliere di Giovanni Sercambi, un scrittore toscano di Lucca, nel 1424 scrive questo libro qua, in cui racconta la storia di un condottiero, un cavaliere, Astulfo, che andava, cavaliere della corte di Napoli, che gli capitano le stesse storie di tradimento, no? Perché poi questa somiglianza, che gli studiosi hanno tracciato questa somiglianza in questi racconti, perché riprendono gli stessi, no? Filoni narrativi delle Mille notte, il tradimento, il potente che trova la sua moglie, no? A tradirlo con qualcuno sempre poi di origini umile. Così anche in un canto di Orlando il Furioso, anche lì c'è la storia di Giocondo. Questa è la moda di dire, sì, in Italia, no? Sono un Giocondo, si dice, c'è un modo di dire, no? E quindi Giocondo, un cavaliere romano che va a visita al re Astolfo, in questa casa qua dei Longobardi, però anche qui le stesse storie si ripete, un tradimento, no? Della moglie del cavaliere, però va dal re, però scopre che anche il re a sua volta è tradito, no? Della moglie. E quindi questo per dire che questi studiosi vogliono affermare che i racconti di Mille e una notte si sono stati introdotti già, no, del periodo medievale, del periodo poi rinascimentale, prima che Antoine Galan introducesse la sua opera. Allora, dicevo, l'origine, quindi l'origine è origini misto, un libro, ripeto ancora una volta, senza frontiere, i luoghi a Baghdad, lo scenario principale, da cui partiva Sinbad il marinaio, di cui era c'era Harun al-Rashid, il califo, il quinto califo della dinastia Abbaside. Ho parlato dell'utilizzo in Francia, che è diventato un racconto per l'aristocrazia, mentre il mondo arabo è un racconto popolare con un linguaggio dialettale, quindi non è mai stato come dire, collocato come fonte di letteratura. E l'inglese invece è una cosa curiosa, interessante, l'inglese l'hanno utilizzato per insegnare l'arabo alla truppa inglese in India, e l'hanno utilizzato per gli ufficiali della compagnia dell'India come fonte di studi antropologici etnici sull'area dell'Oriente. Quindi è stato fatto diversi utilizzi di questo libro qua. Infatti, nel viaggio di Sinbad il marinaio, noi possiamo andare a scoprire che Sinbad il marinaio è già entrato in contatto con popoli che descriveva l'India, con la sua pluralità religiosa, con la sua... Cioè, è interessante da questo punto di vista, per cui è un libro di esplorazione costante. Il Sinbad il marinaio è proprio l'emblema di questa ricerca continua. Ogni volta Sinbad il marinaio che andava in un posto, naturalmente come ogni avventura rischia la morte, ma ogni volta viene premiato di maggiore conoscenza e maggiore ricchezza. E quindi andare oltre le frontiere, incontrare lo straniero, è una fonte formidabile di conoscenza di sé e degli altri. E lo dice Fatma Mernissi in questo libro qua, che descriveva la nonna, una delle sue nonne nel harem. E lei sembra effettivamente nata in un harem, anche se Fatma Mernissi è morta pochissimi anni fa. E racconta la sua nonna che dice: mia nonna sembrava desiderata che io viaggiassi. Infatti le raccontava la storia di quella la donna con gli ali che ha saputo attraversare i confini. Quindi Fatma Mernissi dice: sempre ho voluto io poi portare avanti questo desiderio di mia nonna che mi ha lasciato, di andare al di là della frontiera. E ogni volta che attraverso la frontiera mi viene un'ansia tremenda, perché entro in contatto con lo straniero. Però ogni volta da questa ansia nasce una voglia di imparare ancora di più. Siete già stanchi? Allora, cosa tratta i temi della Mille e Notte? Naturalmente l'amore ha una presenza centrale, il potere, la bellezza. Infatti torna il tema del potere. Il tema del potere, io citavo prima il scrittore Alessandro Spina, che ha tradotto insieme, in collaborazione con Cristina Campo, il libro La città di rame. La città di rame, Alessandro Spina ci teneva molto a tradurlo in quel periodo di guerra, di colonialismi. Perché? Perché lui, quanto italiano di cultura, fortemente, perché poi è morto nel 2013 a Treviglio, nel Bresciano o nel Bergamasco, quindi morto da poco, era fortemente, diciamo, italiano, però nel periodo della guerra, della seconda guerra, poi negli anni 50, i movimenti di liberazione, e lui quanto anche arabo, sì, maronita, cristiano, però quindi in momenti particolari naturalmente vede i popoli intorno, in Libia, in Tunisia, in Algeria, in Egitto, tutti i popoli in movimento, in subbuglio, che rivendicano libertà, che rivendicano giustizia. E, allora, lui ha cercato in qualche modo di essere un ponte tra mondi, sponde nord, sponde sud. Allora traduce questo, la città di Rama, perché la città di Rama è un racconto di un condottiero musulmano che andava molto probabilmente, poi è una figura vera, questo condottiero, Musa bin Nusair, che andava per conto del califato che di Damasco, che ancora era Damasco, siamo ancora nel 700 dopo Cristo, andava verso il Maghreb, quindi l'Occidente, Nord Africa, verso la Spagna, e aveva nella sua cerchia un saggio e un, come si dice, un cortigiano però molto attento a raffare, quindi attento ad acquisire ricchezza in qualsiasi momento. Allora lui va e scopre città, luoghi, saggezze diverse, però poi arriva in questa città di Rame, che è una città ellenistica, però non riuscivano a capire perché era circondata da mura altissime, da un silenzio particolare, e quindi hanno cercato in tutti i modi di capire come addentrarci, come entrare dentro questa città. Allora, in qualche modo riescono ad arrivarci, e riescono ad aprire la porta, entrano e trovano una città intatta, bellissima, una bellezza indescrivibile, però la gente è morta. E entrano nel palazzo centrale di questa città, vedono ori, gioielli, pietre preziose, tessuti bellissimi, e poi su un luogo particolare una principessa lì sdraiata, però morta, però tutta con i suoi gioielli, intatta. Allora uno di questo cortigiano, diciamo avido di ricchezza, continuava a profinare i corpi, rubando dei corpi, gli ori, il gioielli, anche della principessa, dove vicino la principessa, accanto alla principessa, c'era un insieme dove c'è scritto: vedete, noi qua questa città era ricchissima, fortissima, bellissima, eravamo invidiatissimi, però un giorno ci è mancato, c'è stata una siccità, ci è mancato il cibo, ci è mancato tutto, siamo andati in giro intorno per reperire, recuperare delle sopravviste, però poi non siamo riusciti, quindi tutta la nostra ricchezza e la nostra forza non ha servito a nulla. Allora il condottiero Musa bin Nusair, effettivamente questa poi è avvenuta nella storia vera, rinuncia alla campagna militare, torna a Damasco, assegna le sue dimissioni, no? Al califo, e gli chiede il permesso di andare a ritirarsi a Gerusalemme come una persona in ritiro mistico. Il saggio dopo rientra anche lui, però lì quello che gli piaceva molto alla ricchezza, si lasciava come dire ingannare delle ricchezze, naturalmente quanto ingordo poi muore in questa spedizione. E questo Alessandro Spina lo traduce come un tentativo di far comprendere che il potere, l'ingordigia, la conquista, l'invasione non ha senso, ha un limite, e lui stesso applica questo fatto qua, si rimane all'interno del limite e non varcare il, no? E va e non va al di là. E questa è una interessante, questo libro poi illustrato, uscito in Italia negli anni 60, rispecchia questa volontà di questo Alessandro Espina di avvicinare, di far comprendere le parti, di trovare un compromesso dignitoso. Questo è il tema per quanto riguarda il tema del potere. Il tema della bellezza, un altro tema molto presente, nelle storie della Mille e una Notte, perché Shahrazad stessa era una donna bellissima, intelligentissima, altrimenti non avrebbe potuto addomesticare il re. Però i racconti, alla fine, secondo la fine allegra nel racconto popolare, che lei poi naturalmente rimane per 3 anni, fa figli con il re, rimangono poi tutti, come dire, contenti, felici. E invece nel racconto l'ultima notte, le 280esima notte, il racconto non finisce effettivamente così, e non si sa se Shahrazad è riuscita a sopravvivere o è rimasta viva. Del resto non si sa neanche se è una figura reale o fantastica, o una prodotta della fantasia. E allora la bellezza, leggo come venivano descritte le donne nelle corti, nei palazzi di Baghdad. Spero che la mia dizione non rovina la bellezza di quella che leggo. E descrive qua una fanciulla. Se i canoni della bellezza fisica nell'immaginario arabo-musulmano sono stati fissati fin dall'epoca pre-islamica, e le varie descrizioni nella Mille e una Notte non mancano di far continuare questi ideali. Allora, descrivendo una fanciulla, dice: una fanciulla del corpo slanciato, seno fermo, occhio nero, guancia piena, fianco sottile, glutei pesanti, la quale aveva indosso abiti bellissimi. La sua saliva era più dolce del giulebbe. La sua corporatura è talmente dritta e sottile da far arrossire i rami del salice d'Egitto. Il suo accento più delicato, il suo accento è più delicato del zefiro che accarezza i fiori di un giardino. Avete mai visto una donna così? Beh, che degli uomini, naturalmente, assumendo i rischi della critica delle donne. Eppure quella fanciulla, la quale pareva tra loro la luna in mezzo agli astri, ella indossava un serico manto regale e aveva alla vita una cintura incrostata di gemme svariate che le stringeva i fianchi, mettendo in evidenza i glutei, i quali apparivano come un ponticello cristallino sotto un corpo sottile qual verga d'argento. I suoi seni parevano due magnifici frutti di melograno. E poi ancora: sappi, o re, che io ho saputo che il re Zahar Shah, signore della terra bianca, ha una figlia eccezionale, di eccezionale bellezza, indescrivibile a parole, che non ha chi le equivalga in questa epoca, perché è al massimo della perfezione, ben fatta di forme, occhio nerissimo, capelli lunghi, vita sottile, glutei pesanti. Se si avvicina, affascina. Se volge le spalle, fa morire. Volete morire? Bene. Questa bellezza era accompagnata sempre dai profumi, quindi le Mille e una Notte piene di pietre preziose, di profumi, di cibi molto particolari. E quindi, dice, i profumi sono vero oggetto di culto nel mondo arabo musulmano e costituiscono il soffio del paradiso sulla terra, profumo, così considerato. Il muschio, il gelsomino, il nardo, l'incenso, l'ambra, inibiriano e seducono col solo nome, venivano utilizzati da uomini e donne per profumarsi, per profumare l'ambiente, e tuttora le botteghe di profumeri sono quelle più vicine alla moschea, nella disposizione classica del souk, il mercato arabo, confermando il forte legame tra la religione e la fragranza, visto che il profumo è il soffio del paradiso sulla terra, quindi vicino alla moschea ci sia anche la profumeria. La danza e la musica, un altro tema presente molto nelle Mille Notte. Nella storia di Ali Baba, che stava per essere, come dire, assassinato dal capo della banda di ladri, venne salvato sempre da una donna, ma anche dall'arte delle donne. E l'arte qua è la danza. Allora, nel momento in cui stavano per complottare a far fuori Ali Baba, scende questa Margiana, la danzatrice di nome Margiana, innamorata di Ali Baba, con gli occhi resi ancora più grandi del Kajal, perché si è messa a danzare davanti il capo della banda. Quindi gli occhi resi ancora più grandi del Kajal, i capelli annodati in lunghe trecce, erano profumati con essenze del gelsomino, una cintura di maglie d'oro le serrava i fianchi, mettendo a risalto l'indugiamento dell'anca, l'opulenza delle natiche del suo giovane corpo. Al fianco portava un pugnale d'onore col manico d'oro, tempestato di gemme. Eseguendo quattro brani di danza, anche qua la molteplicità della varietà di popoli, quindi danzava quattro danze: persiana, beduina, ebraica e greca, con l'abilità di una ballerina professionale, maneggiando il pugnale nel colpo finale della danza come un atto decisivo per inficcarlo nel cuore del capo di quella orda di ladroni. Ma questo atto qua ha fatto sì che Margiana, con questa chiave, viene liberata e diventa sposa di Ali Baba. Ci siete? Fino qua? Bene, adesso vengono i volumi veri, eh? Non aver paura. Allora vi leggo l'amore, ho detto un altro tema dei racconti di Mille Notte, l'amore. Cos'è l'amore che deve ad un saggio arabo? Chi riesce effettivamente a descrivere cos'è l'amore? E quando si sa che è veramente questo un atto di amore? Lo sapete? È un mistero, giusto? Beh, allora, Ibn Hazm, un saggio politico dell'undicesimo secolo ed esperto in legge religiosa, che dedicò un libro intero ai misteri delle emozioni. Quindi un politico, un religioso, però ha dedicato un libro sulle emozioni, fra cui quindi l'amore. Quanto spesso accade che... E quindi l'amore che cos'è? Dice, quando spesso accade che l'avaro, se è un attimo l'avaro, allenti i cordoni della borsa, lo scontroso spiana il suo cipiglio, il codardo si getti eroicamente nella mischia, lo stupido riveli all'improvviso una mente sveglia, l'esotico si mostri un perfetto gentiluomo, il trasandato compaia come un elegante dandy, il lento si sveltisca, il decrepito ritrova la sua perduta giovinezza, il pio si scateni, il temperato perde ogni freno, e tutto questo è a causa dell'amore. Se accade questo, vuol dire siamo in presenza dell'amore. Vi siete addormentati? No, no. Allora, cerco di in qualche modo gestreggiarmi nel raccontarvi questa storia che simboleggiava la forza della donna nella mille e una notte. La mille e una notte, le donne non sono mai succube, non sono subalterne, sempre riescono con magari astuzia a arrivare a raggiungere i loro obiettivi. E questo racconto qua, quando Shahryar, il suo fratello Shahzaman, per consolarsi, perché dopo i tradimenti delle rispettive mogli, loro hanno detto basta potere, basta ricchezze, basta prestigi, basta vantaggi, basta niente. Andiamo alla ricerca, no? Alla ricerca di verità in giro per il mondo. Quindi si mettono in cammino insieme. Allora, se troviamo, vediamo che cosa troviamo. Allora, mentre camminavano lungo il mare, vicino a un bosco, sentivano dei rumori, vedevano che anche il mare, le onde si aprivano e usciva fuori un ifrit. E l'ifrit è un jinn, sapete, il jinn, quella figura un po' umana, un po' magica nella tradizione arabo-musulmana, ricordate anche nel Corano, quindi quelle sono vie di mezzo tra l'essere umano e gli angeli. Allora esce fuori questo ifrit gigantesco, fortissimo, e che aveva sulla testa una cassa, sunduk, chiuso ermeticamente con quattro pesanti serrature. Come si chiamano? I lucchetti. Allora esce fuori, loro sono naturalmente spaventati da questa figura gigantesca, si nascondono su un albero e cominciano a guardare che cosa stava per succedere. Allora questo gigante esce fuori e si mette ad aprire il primo lucchetto, il secondo lucchetto, il terzo lucchetto, il quarto lucchetto, e da questo baule esce fuori una naturalmente bellissima donna. Allora lei si mette per terra e poi questo gigantesco essere appoggia la testa sulle sue gambe. Lei si accorge però che ci sono due esseri, due uomini sull'albero, e li ha fatti scendere. Loro erano tremanti, impauriti di questa presenza di un essere gigantesco, e solo vederlo scuteva paura. Lei con i gesti, dai, no? Anche minacciosa, alla fine dice: se non scendete, sveglio questo qua, e se si sveglia vi ammazza. Allora, sotto questa minaccia qua, quelli hanno dovuto scendere. Adesso voi dovete fare l'amore con me. Se noi siamo presi dal panico e siamo in situazione di una confusione totale, come facciamo a fare l'amore? Dovete trovare il modo, altrimenti io sveglio questo qua, e se si sveglia vi farà fuori. Quindi scegliete, no? Non avete alternative. E quindi alla fine hanno dovuto cedere, in qualche modo hanno compiuto, no, l'atto amoroso con lei, entrambi. Finito l'atto di amore, dice: dovete darmi ognuno il suo, no? Darmi il proprio anello. Quindi, perché, come fa? Vi spiego dopo. Tira fuori dalle tasche un sacchettino e versa fuori delle cose, escono fuori 98 anelli. Li fa, cosa sono questi? Li fa, sono 98 uomini con cui io ho avuto rapporto da quando sono lei è stata rapita il giorno delle nozze da questo essere, e da quel giorno lì, nonostante che l'ha messo in un baule chiuso con quattro orecchietti, no? nel mare, però nonostante ciò ha potuto fare, no? E dice sono arrivato a 100 a questo punto. E quindi questo è che le donne riescano a raggiungere il loro obiettivo comunque, anche se fosse, no? Se in una baule sopra le teste di un, no? Di un gigantesco essere spaventoso al mezzo del mare, e però riescono a raggiungere i loro obiettivi. E quindi Fatma Mernissi, sociologa, naturalmente una donna che ha coltivato nella sua vita una forte cultura emancipatoria, fa riferimento molto a queste figure di donne che riescono a raggiungere i loro obiettivi, e fra cui queste delle storie di Hassan di Bassora. Hassan di Bassora è un giovane attraente ma fallito, che ha sperperato la sua eredità in vino e allegra compagnia. Quindi anche nelle mie notti si parlava di vino, di ubriachezza, quindi c'è, cioè, di nudità, e stiamo nel periodo massimo dello sviluppo della civiltà arabo-islamica. Quindi la mia notte, un libro è pieno di trasgressione, no? E poi c'è il Corano, va bene, però c'è anche la mia notte che raccontava tutto altro. E quindi una notte, mentre, quindi no, dice, ha sperperato la sua eredità in vino e allegra compagnia, salpa verso, insomma, andata a Bassora per salpare verso mondi diversi per recuperare un po' di ricchezza. Una notte, mentre intento scrutare il mare dall'alto di una terrazza, è attratto dai movimenti aggraziati di un grande uccello che è venuto a posarsi sulla spiaggia. All'improvviso l'uccello si spoglie del suo piumaggio, che si rivela essere un vestito, appunto, e ne esce una bella donna. Sentite qua la descrizione. Intanto un'abilità superava tutti gli esseri umani, aveva una bocca magica come il sigillo di Salomone, i capelli più neri della notte, le sue labbra erano come coralli, i denti un filo di perle. Poi, ma ciò che più attirò l'attenzione a Hassan fu quella che la bella donna nuda aveva tra le gambe. Allora gettò un'occhiata alla donzella che stava ritta e nuda come sua madre l'aveva fatta, e vide ben cose aveva in mezzo alla coscia: una splendida cupola rotonda sorretta da pilastri simili ad una coppa d'argento e di cristallo. E si innamorò e costringe questa donna uccello al matrimonio, ma lui pensava che ormai ha dimenticato le sue ali, perché le ali lui le ha presi, le ha nascosti, e invece lei, anche dopo anni, si è ricordata delle sue ali, è andata lungo il mare a cercarsi le ali, e quando ha trovato le sue ali ha preso i suoi bimbi e se n'è andata lontano nell'isola di Wakwak, un'isola che nessuno ha saputo dove erano, Madagascar, vicino alla Cina, all'Indonesia, in India. E Hassan al-Basri, dopo questo atto qua, è andato in giro per il mondo a trovare il suo amore. Qualcuno dice l'ha trovato, qualcun altro dice l'ha trovata e l'ha portata insieme, e sono andati a vivere sempre felici e contenti nella città meravigliosa di Baghdad. E con questo finisco. Grazie. Mi pare di capire che il tema del confine, del limite, è molto ricorrente in tutte le tue conferenze. Io ne ho viste già diverse. Sì. E compare sempre. Sì. All'inizio hai detto una frase che mi ha colpito, che vede il limite, no, detesta, qualcosa del genere, hai detto. Il confine, il limite. Le mille e una notte non ama la frontiera. Non ama la frontiera. Le mille e una notte, un libro antifrontiera. Questa prima qua va di moda sicuramente. Io ci sento molto degli echi del milione di Marco Polo, in qualche maniera, e di conseguenza anche delle città invisibili di Carlini. Certo. Eccetera, no? Sì, sì. Si sviluppa questo tema del viaggio, dell'incontro, così, e anche dell'incrocio tra popoli, no? Tra culture, e questo bisogno di capire oltre il limite. E infatti questo è un libro cosmopolita, Le Mille e una Notte, quello che diceva, Baghdad era la città capitale del mondo, e quindi rispecchiava quell'epoca lì, e quindi l'epoca di ricchezza, di grande vedute, di lungimiranza, di speranza. E quindi non è un periodo di chiusura, e quindi siamo nell'Ottocento, nel periodo d'oro proprio, cioè tra il 700, 800, 900, fino a quasi 950, 1000, noi abbiamo 400 secoli di grande sviluppo. Quindi apertura mentale. E certo, ogni volta che c'è sviluppo c'è ricchezza. Quando un territorio è frequentato da molta gente vuol dire che c'è ricchezza. Quando un territorio non viene più nessuno, vuol dire che un territorio è povero, muore. Infatti il mondo arabo musulmano, da poi la sconfitta, la scaduta di Baghdad del 1258 in poi, subisce l'invasione mongole dall'Oriente e l'invasione crociati da Occidente. E entra in una fase di decadenza da allora, e quindi la stessa città di Baghdad, che era lo scenario di questi racconti qua, diventa la città delle teorizzazioni più rigide e più povere e più arida del pensiero arabo-islamico. Diventa un pensiero di mobilitazione della popolazione in difesa di quella poca che è rimasto. Questo anche se andiamo a vedere le stesse scuole di pensiero arabo-islamico, la prima e la più grande e la piccola, la prima e la più grande e la più liberale, nasce in un periodo di Baghdad era ricca, capitale, cosmopolita. La quarta sembra Baghdad, il stesso luogo, però la più piccola, la più rigida, la più arida. Siamo nella stessa città, ma le epoche sono diverse. Epoca di paura e epoca invece di grande fioritura. Questo. E quindi la paura, come si dice in italiano, è una, come dite, una? Cattiva consigliera. Una cattiva consigliera. E questo è un detto che corrisponde alla realtà, e la storia è così. Quindi la decadenza, poi la città, perché il mondo arabo-islamico, che raccontate di Mille Notte, ma raccontate anche della storia, diciamo, molto più così documentata, è una storia che si sviluppa in centri urbani. La città arabo-islamica è una città, a volte in alcuni libri dice è civiltà beduina, no? La città arabo-islamica è per eccellenza una civiltà urbana. Il profeta Muhammad nasce nella città della Mecca, era un centro commerciale per eccellenza, un crocevia di incontri di popoli. La città, seconda città dell'Islam, Medina, una città dove era già cosmopolita e plurireligiosa. Poi si sviluppa Bassora, il porto attuale dell'Iraq, diventa un centro di radiazione importantissimo di sapere. Kufa è un'altra città in Iraq, Baghdad, Damasco, il Cairo, Kairouan in Tunisia, Fes in Spagna, Siviglia. L'ultima città che rispecchiava quel periodo lì, Sarajevo. Sarajevo è rimasta l'unica città che ha mantenuto il cosmopolitismo, il plurireligismo, le plurilingue, rispecchiava il periodo, no, medievale arabo-islamico. Sarajevo, che è stata assediata, poi la storia è recente. Uno dei pochi luoghi in Europa dove troviamo la moschea, la sinagoga e la chiesa cattolica ortodossa, e anzi l'annunci mi ha impressionato molto positivamente e mi ha dato un senso di bellezza da un certo punto di vista, anche se in momenti tristi. L'annuncio di morti sullo stesso palo, l'annuncio con la croce della morte di una persona e vicino attaccato sopra o sotto con la mezzaluna, no? Quindi Sarajevo è rimasto l'unica città in Europa che ha mantenuto questo pluralismo, perché il pluralismo dell'Andalusia è stato già nel 1490, gli arabi e gli ebrei sono stati espulsi dalla Spagna. E quindi è rimasto in pratica Sarajevo. Simboleggiava quel periodo lì, che è quel periodo lì raccontato in linguaggio così colloquiale, come si dice, dialettale, popolare, nella storia delle Mille e una Notte, la danza ebraica, greca, araba, ma le religioni si incontrano, si parlano, le figure, poi magari con anche stereotipi, con dei pregiudizi, però poi tutto si dipana verso qualche cosa di buono, di bello. Quindi secondo me gli arabi, i musulmani come gli europei dovrebbero rileggere ancora le Mille e una Notte, perché rimane attuale, perché il titolo, l'attualità del fantastico, perché abbiamo bisogno di fantastico, di una memoria e anche di immaginazione infantile che ci permette con libertà, perché è questo, no? Libertà di addentrarci in spazi sconosciuti, scoprire i draghi, ma anche, no? I pericoli, ma anche le cose che ci danno serenità e bellezza e saperi che il mondo sicuramente è pieno di diversa sfumatura. Con l'interpretazione e con l'esistenza dell'Islam in quell'epoca. Allora, essendo l'Islam oltre che una religione, ha anche insito un'idea politica, no? La Umma, cioè la comunità. All'interno di questo, però, di presenza dell'Islam, c'era una visione, un'interpretazione dell'Islam, meno escludente, o meno, più che meno escludente, meno limitante nella possibilità, anche nell'idea della ragione umana come elemento di per sé, rispetto in quell'epoca, per esempio, allo sovrantismo che c'era in Europa. Ecco, cos'è che è successo? Cioè, che tipo di Islam c'era in quell'epoca? Domanda molto bella e molto interessante, grazie Giacomo. Io faccio pubblicità, posso? La prossima conferenza farò il 19 marzo, La lunga notte araba, che non fa parte delle racconti di Mille e una Notte, ma una notte che la racconterò io, che tratta un po' questi temi qua. Il 19 marzo racconterò questa lunga notte araba, che a mio parere è lunghissima. E cosa è successo? Dicevo che noi la Mille e una Notte ha trovato un scenario di grande, era caratterizzato di grande progresso, di grande esplorazione, di grande ricchezza anche materiale. Il mondo arabo per secoli è stato le vie di mediazione tra l'Europa, l'Africa e l'Asia. Tra tre continenti, che tra di loro erano continenti dissidentari. Mentre la popolazione araba, una popolazione di mercanti, che metteva insieme questi popoli dissidentari, gli indiani, i cinesi, gli africani e gli europei? Le sponde sud-est del Mediterraneo, la popolazione dei mercanti. Lo stesso profeta Muhammad era mercante, portava la carovana del sud del Yemen, del sud della penisola arabica, portando i merci che arrivavano dalla Cina e dall'India e li portava fino al Mediterraneo, per poi essere trasportati verso l'Europa. Quindi essere via di mediazione è stata la grande fortuna del mondo arabo-islamico. Poi questa via di mediazione è venuta mano a mano col tempo ad essere arrivata al culmine con la grande scoperta marittima. L'oceano, i portoghesi, gli spagnoli con le grandi navi andavano in parte verso l'America, in parte hanno girato il mondo arabo, l'Africa, e andavano in Cina e in India per conto loro. Quindi questa decadenza è iniziata, naturalmente le guerre, le diatribe, le dispute territoriali, c'è tutto. La modernità per il mondo arabo in particolare, per il mondo islamico in generale, è stato l'inizio proprio di una decadenza costante che a mio parere caratterizza ancora. Questa ha influenzato molto lo sviluppo del pensiero, quanto era vivace, dinamico il pensiero arabo-islamico. Guardate che Baghdad, anche uno intellettuale come il Kindi polemizzava sulle contenuti del Corano, sulle figure delle profete, in pubblico non lo succedeva assolutamente niente. È un confronto intellettuale. Invece il periodo medievale, le invasioni mongole, le invasioni crociate, perché le crociate iniziano col 1100, e quindi questo mondo diventa la difensiva. Quindi gli orizzonti hanno cominciato a chiudersi e il pensiero arabo-islamico ha perso vitalità, ha perso vivacità, è diventato una serie di ritualità e alcune diciture standard per il culto esteriore, e ha perso i suoi significati, i sensi, essenza, no? E ha tentato di recuperare il mondo arabo-islamico, ci sono stati tentativi nel cavallo tra 1800-1900 con la rinascita araba, non solo, ci sono stati tentativi di rinascita, però sono state poi, questo parlerò nel 19, state insomma un ceto religioso arcaico, popolazione ancorate alle tradizioni, un'elite moderna che succuba alle imposizioni di modelli vincenti, quindi si è trovata dentro un triangolo, il rinascimento arabo-islamico, un triangolo molto faticoso da cui ha fatto fatica a liberarsi. Per cui la conferenza della prossima volta ha il titolo, questa è la lunga notte araba, despotismo, despotismi, conflitti e disordine. E questo adesso intanto insomma ho dato qualche indicazione, quindi il pensiero subisce l'influenza delle condizioni storiche, materiali. Naturalmente un musulmano religioso può spiegare che quando arriviamo effettivamente attenti alle pratiche religiose, arriviamo grandiosi, quando abbiamo, ci siamo discostati, smarcati dal rispetto della pratica religiosa, è una spiegazione, no? Ci siamo ridotti così, è una spiegazione semplicistica, naturalmente, accarezza un po' consolatoria, e anzi anche per non assumere un compito, un impegno per affrontare le situazioni reali. Anche perché, come dicevi tu, era proprio in quel periodo che invece dove c'era la dialettica all'interno del mondo musulmano, dove si discuteva anche di teologia, dove c'era esattamente il pensiero dei Mu'tazili, che ponevano la questione della ragione come un elemento importante, e quindi è una considerazione che adesso il pensiero islamico dica, quando c'erano, quando seguivamo le leggi dell'Islam c'era lo splendore, in realtà non era vero, cioè non era vero nel senso quando invece c'era questa dialettica, diciamo, tra ragione e religione. Sì, la mia impressione, cioè, anche la religione era più, cioè il sapere, la sapienza religiosa era molto più vivace che di oggi, da un certo punto di vista. Perché? Perché le condizioni storiche erano condizioni che permettevano la fertilità in tutti gli ambiti. Quindi anche la religione a sua volta era, come dire, influenzata da quel clima lì. Quel clima lì non c'è più, anche la religione si è impoverita. E quindi oggi il problema è come ripristinare un pensiero vivace e dinamico. Perché gli ostacoli sono tanti e non sono solo all'interno dell'Islam. I nuovi anche modelli, in modi. Per cui questa avremo occasione di 19 di affrontare questa cosa qua. Vi ringrazio per l'ascolto, grazie. Per la pazienza, grazie mille.